Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio da Verona, dallo stand di Vinitaly, giunto alla sua 45esima edizione. Radio 24 quest'anno è ospite dello stand del Trentino. Stand, si fa per dire, perché questo è una specie di palazzo costruito appositamente. E dunque, a fargli onori di casa, per questa puntata di A Tempo di Sport, ci sono dei veronesi storici. Allora, direi che per un minimo di galanteria comincerei con niente po' di meno che Sara Simeoni. Buongiorno Sara. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il di lei marito, oltre che ex allenatore, immagino, perché no, non so, oggi... Non mi alleno più. Siamo sull'ex, Erminio Azzaro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Erminio, che tra l'altro è un fedelissimo ascoltatore di Radio 24. Sì. Di sovente, poi essendo in viaggio spesso in macchina, quindi spesso ci si sintonizza sul Radio 24. Continui, ecco. Così, eh? Poi un super fedelissimo assoluto è Osvaldo Bagnoli. Ciao Osvaldo. Ciao Gigi. Ciao. Che piacere ritrovare qua anche te. Dunque, perché insieme queste persone? Perché stamattina, tra le tante iniziative di Vinitaly, ce n'è stata una a sfondo e a scopo benefico, e non sono poche nemmeno quelle di questo segno, destinata a favore della popolazione del comune di Soave, che è stato colpito dall'alluvione, delle tante alluvioni purtroppo che qua nel Veneto hanno flagellato questa terra. Cosa hanno fatto? Su iniziativa di un cantante, di un uomo di spettacolo che si chiama Paolo Somaggio, è stato lanciato un disco, una canzone che si chiama Così Soave, no? Giustamente dal nome del paese, un doppio senso molto gradito, del vino anche, e c'erano dei cantanti a incidere questa canzone, c'erano dei cantanti all'altezza e c'era un coro di cui facevano parte anche Sara Simeoni e Osvaldo Bagnoli. Allora, perché non parlate... detto all'altezza? All'altezza non lo so, perché volevo sentire dall'allenatore Erminio come se la sono cavata a cantare questi due. Ma come erano bravissimi in campo dello sport, Osvaldo nel calcio e la Sara nell'atletica leggera, veramente sono stati all'altezza, sono stati bravissimi, anche perché... non avendo, mi sembra, una grandissima voce, una grossissima intonazione, si sono allenati nel giro di 10 minuti, sono riusciti a entrare nel coro in modo bravi, perfetto. Bravi, bravi, bravi. E c'erano loro innanzitutto come capofila, poi c'erano altri grandi personaggi dello sport veronese. Sara, a distanza di tanti anni, c'è stata un'atleta italiana che finalmente è riuscita a issarsi fino a dove lei, tu, insomma, non ha molta importanza, tu che nello sport è più semplice, ti eri elevata la bellezza di 30 fischi anni fa. Questo, e poi però chiederò conferma anche al marito allenatore, ti ha dato, come dire, ti ha ringiovanita da un certo punto di vista sportivo, agonistico, oppure comunque è stata in ogni caso una piccola, come dire, una piccola amarezza, nel senso che non sei più tu soltanto la detentrice di questa prodezza? Ma no, diciamo che l'ho vissuta in modo fisiologico, anche perché io credo che chiunque si avvicini al mondo dello sport sa già le regole quali sono, che i record sono fatti per essere battuti, che ci può essere qualcuno più bravo di te. La cosa al limite che mi poteva dispiacere è non aver avuto un avversario a suo tempo che mi stimolasse, ecco. Però insomma, ognuno è figlio del suo tempo, fa i risultati in base a quello che ha a disposizione, e quindi insomma è normale che l'evoluzione sia così e che ci sia qualcuno che supera, certo, la tua misura. È stata tempo. Sincera tua moglie Erminio, oppure direi proprio di sì. Di sì, no, io scherzo, cerco di... È uno dei miei difetti la sincerità. Sì, è sempre stata così, eh? Ma diciamo sì che questo record dell'Antonietta è un record veramente che viene da molto lontano, nel senso, lei ha iniziato con le prove multiple, quindi è una abituata alla fatica, al lavoro, no? Sì. Che poi col passare degli anni ha capito che l'alto poteva essere la sua specialità. Poi a me, diciamo, fa particolarmente piacere, perché Antonietta, essendo nata a Cava dei Tirreni, quindi in Campania, io sono d'origine del Cilento, quindi questo record un po' è rimasto in casa, se vogliamo, no? In qualche modo familiare. Familiare, sì, senza poi confondere appunto le epoche, senza confondere nemmeno le Olimpiadi con altre manifestazioni, no? Insomma, rimane quella di Sara Simeoni, rimane una gemma che ha fatto la storia dello sport italiano. È bello che qualcuno ricominci a fare la cronaca, se non altro, sì, dello sport italiano. Mettiamola. Che se ne parli. Che se ne parli, e così almeno la rimettiamo nelle giuste proporzioni. Osvaldo, c'è una. Vabbè, del calcio veronese. Il calcio veronese lo liquidiamo in fretta, perché, no? Mi pare. Sì, bene, oddio. Non, cioè, purtroppo per il momento. Purtroppo. Poi un anno o l'altro verremo a far festa anche per il calcio veronese, quello di quello diciamo più popolare, quello dei giallo-blu, dell'Hellas e non soltanto del Chievo. Quello che volevo chiederti è questo: se noi stiamo a come oggi il calcio di vertice soprattutto viene trattato, allora rispetto ad un tempo, a parer mio, ma la domanda è per te, l'allenatore oggi è, mentre un tempo era un fenomeno oppure un imbecille nel giro se non altro di 2 o 3 mesi o di un certo periodo di tempo, adesso è un fenomeno, un cretino nel giro di pochi giorni, di 15 giorni 15 scarsi, perché Leonardo fino a sabato mattina, per fare l'ultimo esempio, era un genio della panchina, è arrivato a mercoledì mattina che era un incapace totale. Era così anche ai tuoi tempi o... Ma io penso che non era così ai miei tempi, ma questo si spiega perché è tutto il mondo è cambiato, adesso si corre tutto più veloce, non hai tempo nemmeno di capire quello che stai facendo e già è cambiato quello che volevi fare. Senti, quindi tutto è più esasperato, ci stai dicendo? Sì, io penso che è tutto così, tutto il mondo mi dà l'impressione che è questo. Ma ha un senso secondo te tutto questo, oppure siamo talmente rassegnati ormai, io direi anche un po' lobotomizzati? Io purtroppo ho 76 anni, sì. E ho vissuto in un'altra maniera, insomma, sì. e questo purtroppo non so se è un bene, perché è il progresso, però io penso che noi vivevamo meglio, forse vivevate meglio, anche se la vita era più difficile magari, sì. Però penso che noi vivevamo meglio. Quindi il tuo è come fosse uno sguardo dal ponte che sta, parliamo di calcio e di queste esasperazioni, è un uomo che è sul ponte, guarda giù e vede una gabbia di matti, se non capisco male, più o meno. Sì, magari con la porta aperta. è in forma Osvaldo. Vediamo se è in forma anche Sara, proprio su questo tema qua. Sara dovrebbe essere in forma, perché dato che non c'è nessuna privacy da violare, se dico che un piattino di trippa veronese ce la siamo appena assaggiata. Ah, io l'ho mangiato, sì. Certo, in uno stand. Anche perché mio marito non piace e allora ne ho approfittato. Bravissima, nello stand col socio del Bardolino, era qua a 2 passi, non vedo, sì, perché no. Vale anche per il vostro mondo dell'atletica e poi vi lascio andare davvero, oppure è soltanto il calcio che è così follemente esasperato? No, penso proprio che in questi anni questo vortice così abbia colpito tutti, e quindi probabilmente anche il nostro mondo, che ha assorbito tutto quello che di bello e meno bello c'è stato da prendere. Allora, signori, io vi lascio tornare a cantare, perché magari dovete rifare le prove. A Erminio Azzaro strappo una promessa: la prossima volta che torneremo a collegarci col professor Vittori, magari studieremo degli interventi incrociati, perché so che hai particolarmente gradito quella puntata. Sì, ho fatto i complimenti, perché poi il professor Vittori è vulcanico, no? E quindi quando si vede un monumento che esplode come un vulcano, ogni tanto è comunque divertente. Allora, noi ci risentiamo subito dopo l'intervallo per gli aggiornamenti sul traffico. Nel frattempo ringrazio di cuore Sara Simeoni, Erminio Azzaro e Osvaldo Bagnoli. Grazie a voi. Sì. Grazie. Torniamo in onda da Verona. Come ormai da anni sapete, Vinitaly è un happening, e quindi stamane c'era questo consueto appuntamento con Osvaldo Bagnoli. Poi ho scoperto che con Bagnoli c'era niente meno che Sara Simeoni, è stato un tuffo al cuore ritrovarla, riconoscerla, perché insomma un monumento dello sport italiano, vi garantisco che per uno della mia generazione trovarsela davanti all'improvviso è stato uno shock molto, molto piacevole. Tra poco arriverà un altro amico di vecchia data. Nel frattempo credo che siamo in grado di collegarci con Nicola Roggero. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, senti, io ho una domanda sotto gli occhi che arriva dal display, è un ascoltatore a nome Moreno Giallella che scrive: buongiorno Garanzini, ma che lei sappia, esiste una regola non scritta ma evidente all'interno dell'UEFA che impone di derubare il Chelsea tutti i santi anni? Guarda Gigi, ne parlavo poco fa a Sky Sport 24, abbiamo ripercorso quella che è una via crucis del Chelsea nel rapporto con gli arbitri. Abbiamo cominciato nel 2005, quando il Chelsea perse con il Liverpool per un gol di Luis Garcia, con una palla che però ragionevolmente la linea di porta non l'aveva mai varcata. Poi siamo passati al 2009 con il famoso arbitraggio di Overbo in Chelsea-Barcellona. L'anno scorso, nell'andata degli ottavi con l'Inter, il Chelsea non si può dire avesse avuto un trattamento particolarmente favorevole da parte dell'arbitro. No. È così, stiamo usando un sottile eufemismo. E quest'anno è arrivata la chicca anche con il Manchester United. Attenzione, fra l'altro, le tre squadre che poi hanno eliminato il Chelsea hanno tutte regolarmente vinto la Champions League, quindi se si conferma questa tradizione, Sir Alex può già mettere in fresco la bottiglia di Sassicaia che ieri gli ha regalato Ancelotti. Questo è certamente vero. Senti, al di là poi dell'esito, del merito di questa polemica sacrosanta del Chelsea, io ieri sera come tu sai, trasmettiamo da Vinitaly, ieri sera ci sarebbe stata anche una magnifica cena con una grande degustazione, eccetera, l'ho sacrificata professionalmente e anche un po' sentimentalmente a Chelsea-Manchester. Ma ho giurato che è l'ultima volta che lo faccio, perché sinceramente queste sfide tra britanniche, dire che da un punto di vista spettacolare ti diano molto, secondo me è sbagliato. Perlomeno a me ieri sera la partita sinceramente ha annoiato. Devo dire che il Manchester, che alla fine sì, non ha rubato niente, perché se l'arbitro non gli dà un rigore contro a tempo scaduto, questo è un altro discorso, però pur avendo giocato un signor primo tempo, nel secondo non ha passato metà campo poi in realtà. Guarda Gigi, ne parlavo, visto che tu sei beato te a Vinitaly, a Verona, ne parlavo recentemente con il presidente del Chievo Campedelli, che è un grande appassionato di calcio inglese, e tutti e due abbiamo convenuto che la bellezza del calcio inglese è rimasta per le squadre che sono dall'ottavo posto della classifica in giù, dove si vede ancora quel calcio ritmato senza troppa prudenza tattica. Le prime 6-7 squadre del campionato oramai, e l'ho dimostrato per esempio anche il Tottenham con il Milan, adottano delle tattiche che sono tranquillamente quelle del calcio italiano anni 70, cioè grande attenzione difensiva. Ieri il Manchester United ha difeso questo importante gol di Rooney e l'ha fatto esattamente come facevano le squadre italiane, che erano maestre nel difendersi bene, con ordine, perché tutto sommato Van der Sar ha fatto poi una sola grande parata però su Torres, e ripartendo in contropiede. La maggior parte delle sfide di vertice del campionato inglese, non soltanto delle gare di Coppa, sono noiosissime, sono dei monumenti a primo non prenderle. Io direi proprio che è così. Certamente il parallelo con il calcio spagnolo in questo momento non regge, se non altro sul piano del divertimento. Io poi non parlo dei risultati, perché nella partita secca tutto potrà sempre accadere, ma dato che andiamo a occhio verso una finale salvo miracoli, andiamo verso una finale anglo-spagnola, spagnola sicuro, perché tutto sta a vedere chi passa tra Real e Barça, e dall'altra parte insomma, lo Schalke a un certo punto i miracoli finiranno, non sempre troverà contro una squadra dissestata come l'Inter, destabilizzata come l'Inter di questo momento, e quindi magari in finale si andrà. In una finale secca poi ci può stare, ma che oggi da un punto di vista emotivo il calcio inglese non regga il paragone con quello spagnolo, mi sembra che anche tu lo condivida, Senz'altro, soprattutto non lo regge con il Barcellona soprattutto, ma direi anche con il Real Madrid, che insomma contro il Tottenham, al di là dell'espulsione di Crouch, quindi del vantaggio numerico, ha dimostrato una differenza di valori piuttosto netta. L'unica incognita per chi arriverà in finale, per quale delle due spagnole arriverà in finale, che si gioca a Wembley, quindi sostanzialmente si gioca in casa, ammesso che poi ci arrivino Manchester o Chelsea, che si giocherà in casa dell'avversario, o comunque in un terreno più favorevole all'avversario, e che se arrivasse il Manchester, ecco, un Manchester che ha giocato una partita tatticamente ordinata come quella di ieri, chissà, potrebbe magari riuscire in qualche maniera a inceppare i meccanismi soprattutto del Barcellona, penso, ma non c'è dubbio che l'impressione che si ha in questo momento che la Champions League verrà assegnata al Bernabeu o al Camp Nou, quanto sarà la semifinale Barcellona-Real. Sì, ecco, infatti tu adesso fa finta di non ascoltare quello che ti sto dicendo per ragioni di cioè tu per ragioni di campanilismo, io lo dico, ti garantisco con la massima obiettività, anche perché aver visto ieri sera, cioè, era giusta da parte Rai la scelta di trasmettere Chelsea-Manchester, perché era indubbiamente una partita più combattuta, come poi è stata, rispetto a Barcellona-Shakhtar, ma aggiungere la noia di questo calcio britannico di vertice attuale alla noia di un servizio Rai, cioè del fatto che fosse la Rai ad apparecchiare questo contenuto, sinceramente era eccessiva. E chiuderei con una tua sensazione, perché è vero che il Manchester a questo punto è favorito e non c'è dubbio su questo, però un gol di scarto in trasferta, visto che poi trasferta è sino ad un certo punto, no? Trattandosi di Chelsea e Manchester, secondo me qualche margine al Chelsea ancora lo lascia. Hai detto bene, Gigi, è una trasferta molto, per modo di dire. Basta pensare che si giocherà il ritorno e 20 giorni dopo il Chelsea sarà di nuovo all'Old Trafford per giocare la sfida di campionato, quindi è un campo che comunque il Chelsea conosce benissimo. Fra l'altro il rigore fosse stato accordato e poi realizzato avrebbe cambiato la situazione, direi, più psicologicamente per il Chelsea che non fattivamente, perché anche con l'1-1 il Chelsea sarebbe stato in ogni caso obbligato a segnare almeno un gol all'Old Trafford, quindi non è che cambia tantissimo, però questo gol il Chelsea lo può fare. L'anno scorso il Chelsea vinse 2-1 all'Old Trafford nella partita decisiva per il titolo, non sempre che sarà una grande parata di Van der Sar, un salvataggio sulla linea di Evra o un arbitro che non vede il rigore su Ramirez al 94esimo. È una sfida che è ancora in piedi e fra l'altro direi che è l'unica dei quarti di finale ancora in piedi. Il Chelsea, certo, delle chance le ha, chiaramente in questo momento dovendo puntare dei soldi li metterei sullo United, però Ancelotti non è ancora fuori. No, e credo che martedì sarà forse più divertente, perché partendo da questo da questo prologo credo che la rivincita dell'Old Trafford martedì prossimo tra Manchester e Chelsea sarà davvero divertente. Grazie Nicola. Grazie Gigi, un saluto agli ascoltatori e soprattutto un saluto a Vinitaly. Sì, questo con piacere. Chiudiamo con il collegamento con Sky Sport 24, tra poco torniamo, io non mi muovo da Verona e da questo stand di Vinitaly, ripeto, 45esima edizione, ospite Radio 24, il suo stand e tutti i suoi programmi di questi giorni, da oggi a lunedì, del padiglione del Trentino. Tra poco mi raggiunge Gianni Mura, subito dopo l'intervallo per i mercati. Nel frattempo direi di ascoltare proprio le parole di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta di ieri sera. Io non lo conoscevo questo arbitro qua, mi ha detto questo è un buon arbitro, la pecca che ha che gli manca personalità e coraggio per dare un rigore all'ultimo minuto, anche se è così chiaro ci vuole personalità e coraggio, e probabilmente questa è stata la sua pecca per questa partita. Beh, è ribaltabile, certo che sì, non è facile vincere là. Ci consola il fatto che l'anno scorso, quando dovevamo vincere, abbiamo vinto. Eravamo sotto in campionato, siamo andati là con l'obbligo di vincere e l'abbiamo fatto, e speriamo di riuscirci anche quest'anno. La partita ha dimostrato che qualche problema glielo possiamo creare. Grazie per averci fatto riascoltare la voce della signora Simeoni. È bello questa signora Simeoni, scrive Stefano Fantolino da Torino. In effetti è una signora vera, vi ripeto, avendola, insomma, vedermela dinanzi all'improvviso e sentirla è stata per me per primo un'emozione autentica. Gianluigi ha chiamato dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi Gigi, ma la sento malissimo, però tanto io, guardi, è solo una curiosità, io sono un ex tifoso juventino, un po' come lei del Toro, nel senso adesso sono diventato più uno sportivo, ma è una curiosità, il passaggio del turno dell'Inter, allora se lo Schalke 04 non si dovesse presentare in campo e quindi perderebbe a tavolino 3-0, è una situazione ipotizzabile e attuabile oppure è una mia cosa così che non c'entra niente? Tutto ma, qua. Ma perché non si dovrebbe presentare? Cosa gli succede? Si spaventa, cioè vede magari che non gioca Kivu e dice allora non vale, non, come le viene in mente? Per curiosità mia proprio. Io seguo perché essendo l'Inter, avendo l'Inter bisogno di un 4-0, se lo Schalke non si presenta e perde a tavolino 3-0, in teoria lo Schalke ha già passato il turno. Tutto qua. Sì, può darsi che da regolamento stretto lei abbia ragione. In effetti credo che il regolamento preveda lo 0-3, però immagino anche che in un caso di questo genere troverebbero il modo di cambiare il regolamento, perché insomma non avrebbe molto senso, no, la passare attraverso la defezione, attraverso una furbata di questo genere. Io ogni volta mi mi stupisco della vostra fantasia, riuscite sempre a sorprendere da questo punto di vista. Questa però, devo dire che rispetto ad altre davvero non è male. Nella seconda parte del programma, vi ripeto, insieme a Gianni Mura parleremo non soltanto di calcio, però anche di calcio e per esempio di questo sfogo che stamane la Gazzetta dello Sport ha ospitato sulla spiegazione di Cosmi, la versione di Cosmi del suo licenziamento. Una frase tipo testuale: domenica mattina alle 10 il presidente Zamparini mi ha chiesto la formazione, gli ho detto che sta fuori Pastore e giocava Miccoli, si è arrabbiato per l'esclusione del Flaco e ancora di più per la presenza di Miccoli, abbiamo avuto una discussione molto violenta. E poi da lì in avanti tutta una serie di considerazioni di Cosmi che secondo me sono un discreto spaccato del mondo del calcio di oggi, a proposito di quello che ci raccontava prima Bagnoli. Allora, viene in soccorso, come spesso accade, un ascoltatore che dice: guardi, il codice UEFA dice che se tu non ti presenti a una partita e non hai motivazioni più che gravi, viene squalificato immediatamente per 2 anni. Grazie. Grazie lo dico io, ammesso che questo sia vero, ma sinceramente questi super risvolti da regolamento non li conosco. Vabbè, sentite, allora nel frattempo, seduto dinanzi a me, non ci sono più Bagnoli e Sara Simeoni, Erminio Azzaro, ma c'è Gianni Mura. Buongiorno Gianni. Buongiorno. In questo caso non è un'emozione, perché è un'abitudine pluridecennale, lo shock semmai è di doverti chiamare direttore. Buongiorno direttore. Vabbè, buongiorno. Allora, vivessimo in un paese normale, io il mio amico Muro lo chiamerei direttore da un sacco di anni, probabilmente di un giornale di carta rosa, ma visto che hanno sempre fatto scelte diverse, ma diverse soprattutto di filosofia, non tanto di persona, meno male che questa scelta l'ha fatta Gino Strada. Ma effettivamente da pensionato mi è stata offerta la direzione di E, il mensile di Emergency che è in edicola da ieri. E a me, che già avevo simpatia per questo gruppo di persone, è piaciuta anche l'idea di scommettere sulla carta stampata in un momento non particolarmente felice sotto tutti i profili, e quindi mi sono imbarcato in questa iniziativa. E poi vabbè, è come chiedere a un vignaiolo se è buono il suo vino, ma insomma mi sembra che abbiamo fatto un buon lavoro per il primo numero almeno. Io non posso che concordare. Senti, a parte che già Diego, un veronese, scrive in tempo reale: finché c'è il Chievo c'è speranza, è una frase che Gianni Mura ci regalò qualche anno fa. È ancora attuale? Non la ritiro, certo che è ancora attuale. Non la ritiri? No, avrei preferito che battessero la Samp per essere un po' più tranquillo, ma si possono fare anche punti con l'Inter. Sì. Sabato. Se è quella, fin sì, da sabato. Fin da fin sabato. Da. Certo, sì. Per fare punti con la Samp, cioè per battere la Samp bisogna tirare in porta però. Sì, è una cosa che si sono un po' dimenticati ultimamente. Gli uni e gli altri, se parliamo di domenica un po' scorsa. Tutte e due. Ebbene, insomma, ogni tanto capita di avere di queste amnesie. Senti Gianni, su E, che ho anche citato ieri, in particolare la straordinaria intervista tua a quella straordinaria persona che è Mariangela Melato, non ho trovato finora tracce di vino e di sport. Sì, perché non sono argomenti tabù, anche per chi mi conosce evidentemente. Certo. Si tratteranno se c'è un motivo particolare, ecco, per fare la rubrica di vino o di sport di 15 righe o 20 abbiamo detto lasciamo perdere, magari si faranno dei pezzi di sport. Comunque il direttore e la redazione hanno già individuato un collaboratore ideale per lo sport. Sì. Già un giornalista di una certa esperienza, sia diciamo di carta stampata che di radio e televisioni, tale Gigi Garanzini. Ah, ecco. Ecco, non far finta di non saperlo, che sarà quello che eventualmente si occuperà di sport. Adesso vedi, al di là dei microfoni in giro per l'etere tricolore penseranno che siamo ubriachi, non lo siamo assolutamente, possiamo garantire, siamo passibili di palloncino in qualsiasi istante. Ah beh, certamente. Così è andata, ovviamente, visto che il direttore annuncia questa cosa pubblicamente dai microfoni di Radio 24, io non posso che rispondere che ne sarei, anzi ne sono onorato. Volevo sentire questa un'opinione su un tema che ho sottoposto prima a Bagnoli, e cioè è sempre successo nel calcio italiano che, insomma, l'allenatore, a parer mio, è sempre stato un tantinello sopravvalutato, nel bene e nel male, la sua incidenza sia nel bene che nel male. Però mi sembra che siamo arrivati adesso a livelli impensabili, nel senso che ancora sabato alle 7:30 Leonardo era... Sì, era Leonardo, ma Leonardo da Vinci, cioè era il genio del pallone. Martedì dalle 23:30 in avanti circa è un demente che chissà perché gli è andato una panchina. Bagnoli sostiene che oggi tutto è esasperato. A me questo sembra sia davvero tanto, però. Sì, è davvero tanto e purtroppo non possiamo dire che è solo colpa dei più beceri tra i tifosi, perché a dare buon esempio ci sono anche giornali di un certo peso, insomma, commentatori, e quindi quella che si chiama la critica. Ecco, allora penso che se... ho già troppo da fare, ma se la Federcalcio mi desse l'incarico di cominciare a qualche parte, direi non si può fare molto. Cioè, finché c'è questo tipo di giornalismo non aiuta a crescere né quelli che guardano, né quelli che giocano, né quelli che allenano. Cioè, è una immaturità perenne per cui si vive solo di grandi... o sei Leonardo da Vinci o cretino dopo una settimana, oppure o sei nuovo Riva o sei un brocco. Non c'è più, non ci sono più le mezze stagioni. Ma soprattutto non c'è più quello che si chiama buonsenso. E dai 6 mesi per valutare uno, o per valutare anche il lavoro di un allenatore, di più. Ora sono già saltate 12 panchine su 20 e alcune sono lì. Sono praticamente quasi 2/3 delle panchine che a un certo punto... E tutte queste scelte sono fatte da presidenti che ti parlano di filosofia aziendale, sposare il progetto, eccetera. Poi senti Zamparini e dici: ma di che cosa stiamo parlando? E soprattutto con chi? Sì, se parliamo appunto di presidenti, certo, poi è vero che 8 gol presi in 72 ore da Milan e Schalke 04 sono indubbiamente uno shock e possono far dubitare di però io non capisco perché debbano fare dubitare sempre soltanto di Leonardo e per esempio non di Maicon o non di Thiago Motta o non di Zanetti, che sbaglia un fuorigioco in una maniera dilettantesca, essendo Zanetti, essendo l'anima dell'Inter, e quindi non capisco perché non debba essere la somma di questi errori di giocatori a produrre uno shock e debba sempre soltanto essere Leonardo che di colpo non è più capace. Esatto, se vogliamo cercare di parlare vagamente di calcio, io credo che questo 4-2-3-1 che già usava molto Mourinho, il difetto stia un po' nel manico, ossia che se tu ne lasci solo 2 in mezzo al campo e uno con la mobilità di una sdraio, sì, sto parlando del più alto, sì, e con, certo, più capelli, sì, non faccio nomi, no, bravo. Però di un brasiliano naturalizzato italiano, sì, che gioca, certo, alla fine questi due si massacrano e diventano paonazzi. Cambiasso del secondo tempo contro il Milan a me dava l'idea di quegli omini che passano e chiudono il sipario dopo che c'è stato il bis, proprio lo chiudono, sì, e dicono: la compagnia ritornerà tra un anno, arrivederci e grazie. Cioè, ma umiliato, non allegro. No, secondo me lui è di quelli che soffrono quando la squadra va male. Sicuro. Non hanno più niente da dare, sono spremuti. È per questo che io dico che Leonardo ha le sue colpe, perché sia nel derby che contro i tedeschi forse bastava mettere uno che corre, no? Non dico niente di più, uno cautelare come Karja, e togliere uno come Pandev e hai una squadra più equilibrata, perché poi si può anche attaccare in 11, non è quello il discorso, però bisogna vedere da dove parti per attaccare. Con questa formula tu hai sempre una squadra spaccata in 2, con la difesa esposta perché non è protetta abbastanza, con gli attaccanti che non tornano e che sono difficili da raggiungere, e hai una squadra che fatica dietro, in mezzo e davanti. Certo. Questo è il risultato del 4-2-3-1. Sì, e questa è la differenza che c'è. Mourinho ha tenuto in piedi finché ce l'hanno fatta, poi se n'è andato, credo che non tornerà più perché quando ti riesce un colpo così non si torna dove si è stati felici. Certo, che è quello che avrebbe dovuto fare l'Ippico d'Italia, no? Quando infili una moneta in una slot machine e cadi travolto dalle monete che ti arrivano addosso, è difficile che si ripeta, no? Sì, è difficile, però ti viene, sì, ti la viene tentazione, quasi sempre poi va a finire male la seconda cosa, e quindi insomma gli ammonimenti non mancano. Un caro saluto a Mura da Pinè, viva il Trentino, scrive Gilberto. Beh, insomma, tra tanti messaggi di benvenuto per te. Viva assolutamente, tenetemi qualche fungo da parte. Certo, questo pensavo di doverlo lei, di dover selezionare questo tra i tanti saluti che arrivano. C'è anche un ascoltatore, Carlo da Genova, che scrive: ci si può abbonare a E? Rispondo io, certo che si può. Anche online. Anche online. Sì, costa 20 euro online e 40 cartaceo. Abbonamento annuale, evidentemente. Abbonamento annuale per, sì. Per un mese. Per 11 numeri, perché luglio e agosto, come fanno molti, si fa un numero unico. Il signor Mura è in super forma, è uno showman magistrale, scrive Stefano da Verona. La mobilità di una sdraio è geniale, incalza Roberto da Arezzo. Sulla mobilità di Motta, Mura mi ha fatto piegare dal ridere, scrive un altro ascoltatore ancora che non si firma, ma insomma, direi che ci sta bene. Allora, a che punto siamo arrivati? Perché mi è sfuggito loro. Loro sono da palloncino, comunque. Loro sono da palloncino. Per capire perché Motta è utile, se no Prandelli sarebbe pazzo. Sì. È in nazionale, per esempio, con una squadra messa in un modo leggermente diverso, lui ha un senso, pur avendo sempre la mobilità di una sdraio, perché può gestirsi dietro, ogni tanto va avanti, vede la porta, ti mette la ciliegina. Ecco, però appunto bisogna un po' studiarli i giocatori, non solo renderli felici. Siamo arrivati all'intervallo, no, manca un minuto all'intervallo per il traffico. Allora Gianni, su 10.000 domande possibili, provo cosa non so nemmeno io dove battere la testa. Baggio, ma quella di Baggio è una cosa, no, mi ha più intrigato questa sciocchezzuola di Prandelli che dice questa cosa, che in fondo lui simpatizza per il Napoli, il Milan subito si arrabbia. È vero che poi tutta una bolla di sapone, dura lo spazio di un mattino, però non è piacevole il tutto. Non è piacevole in generale questo clima di piccola permalosità, perché poi non è successo niente di grave. Quindi io vorrei ricordare a Galliani che, come ha il diritto lui a simpatizzare per chi vuole, ce l'ha anche un CT, perché è comunque un uomo. Anche se Lippi non lo diceva, era chiaro che aveva più simpatie per la Juve che per il Catania, per dire. Quindi Prandelli, se preferisce o è contento che vinca il Napoli, anch'io sono più contento se vince il Napoli, mi schiero con Prandelli, ma non perché abbia qualcosa contro il Milan. No, perché? Perché sarebbe un fatto nuovo, perché si apre un po' di più, diciamo, l'orizzonte degli scudetti, e poi comunque possiamo anche continuarlo dopo. È un discorso più generale sull'Italia, questo della piccola permalosità. Allora facciamo così, lo continuiamo tra un po', anche perché è arrivato un messaggio a cui preferirei rispondessi tu. Allora, riecco il direttore, no? Mi pare il direttore Gianni Mura di E. No, riecco nel senso che ti ho interrotto per essere puntuali almeno per una volta sul traffico. Stavi dicendoci che questa personalità, dicevo, il direttore, nel senso che è un discorso di costume, questo mi pare, non più tanto sportivo, questo della permalosità diffusa. Io trovo che sia diffuso su vasta scala, cioè anche certe reazioni a livello politico di ministri come La Russa, eccetera. Da che mondo è mondo, uno che fa politica prende fischi o applausi, però da qui a dire che i fischi sono un'aggressione o a spacciarli per un sommovimento popolare ce ne corre parecchio, e quindi credo che bisogna, specialmente se si ha un ruolo istituzionale, stare un pochino attenti a non esasperare queste cose. I fischi restano fischi, esattamente come allo stadio. Senti, allora, già che ci siamo, prima di chiudere, anzi chiudiamo proprio così, il display sforna messaggi SMS in tempo reale che in puntate come oggi sono per la gran parte gradevoli, altri magari meno. Adesso capisco tutta questa enfasi, scrive uno che ovviamente non si firma, per il nuovo giornale comunista, è perché ti hanno assunto Garanzini. La marchetta che hai fatto avrebbe fatto impallidire persino la Santa Rubi. Allora, prova a spiegare tu qual è il... quali sono gli emolumenti per il mensile di Emergency? Ah beh, a cominciare da me gli emolumenti sono zero, penso che Garanzini avrebbe diritto anche a zero, esattamente come probabilmente altri comunisti come Claudio Bisio zero, Neri Marcorè zero, Gino Michele zero e tanti altri che ritengono che sia utile anche lavorare gratis per delle idee, peraltro non particolarmente comuniste, voglio dire, alcune sono quasi evangeliche. Certo. Altre sono liberali, altre potranno altre essere. Altre meno, e comunque è un giornale. Però mi rendo conto che paga, che paga. È un giornale che paga pochissimo, mi rendo conto che qui ormai si compra di tutto e sembra che questo possa funzionare per tutti. In verità no, quindi ovviamente non sono mai firmati questi messaggi. Diciamo che questo signore ha sbagliato indirizzo. Signore però, mi raccomando. Signore, io non ho motivi per insultarlo. Esattamente, noi non siamo mica come quelli di prima che sono permalosi, noi semplicemente diciamo le cose come stanno, poi se vogliono lo possono anche verificare. Quello che capiamo bene è che facciano un po' fatica a capire che per un messaggio, per una causa e per delle persone come Gino Strada per Emergency non solo si può lavorare gratis, ma si vuole e si deve lavorare o comunque dare il piccolo, nel mio caso, o il grande contributo che dà Mura, proprio con il piacere di darlo e con il senso del dovere di darlo. Poi ne parliamo prima che Gigi abbia scritto una riga, certo, addirittura. Beh, certo, firmato contratto miliardario. Sì. Infatti ho visto girare Raiola qua. Sì. Gianni, per oggi direi che la chiudiamo qui. Io ho qualche ascoltatore da smaltire, ti congederei perché comunque mezz'ora di deambulazione di assaggi perduti non sono pochi. Tutta salute. Tutta salute. Ciao Gianni, a presto. C'è in linea Tino da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, la mia telefonata è sulla questione delle partite vinte a tavolino di quell'ascoltatore precedente di cui tutti abbiamo colto l'ironia, no? Sì, un istante solo, perché mentre c'è ancora Mura volevo fargli ascoltare un messaggio che è appena arrivato da Treviso. In quanto comunista regalerò 10 abbonamenti, scrive Carlo da Treviso. Come non benedire Mura per tutto ciò che ha scritto su Pantani o quando chiamò il Vantù il bubbone della pianura, grazie anche per E e per Emergency, scrive Mirko Capaci da Arezzo, eccetera eccetera eccetera. Ce ne sono altri, magari poi te li metto via. Gianni, mi scusi, Tino, dica. Sì, volevo fare un esempio. Io fine anni 50 o primi 60, sono vecchio, 78 anni. Sì. E vado a Torino in automobile con i miei amici, andiamo al vecchio comunale e c'era uno Juventus Inter. Sì. Risultato, prendiamo posto regolarmente, i biglietti prenotati, qua e là, ci sistemiamo in tribuna, a un certo punto comincia a entrare gente, ne arriva sempre di più, a un certo punto si sta in piedi e non più seduti per farci stare il doppio degli spettatori, la folla sfonda il portone principale, entra in campo e intorno al rettangolo di gioco c'era una siepe umana. Certo. L'Inter accetta di giocare ugualmente per 20 minuti. Era il 61. Infatti mi ricordo. E l'Inter accetta di giocare in quelle condizioni lì per 20 minuti, ma poi a un certo punto la situazione era anche pericolosa, perché l'arbitro era, insomma, chi è che gli fischia un rigore in favore dell'Inter in un'occasione così? Insomma, questa è la paura che l'ammazzavano di botte. Va bene, finito. Il regolamento assegnava partita a tavolino 2-0. Fa appello alla CAF, Commissione di Appello Federale. Sì. E la Commissione di Appello Federale vigente Umberto Agnelli alla FIGC. Presidente Umberto Agnelli. Fa ripetere la partita. Certo. Ecco, l'Inter si presenta con la squadra ragazzini, c'era Mazzola che aveva 15 anni. Come no, la Juve vince 9-1 con 6 gol di Sivori. Lo so, Tino, cioè più o meno lo sappiamo, ma dove vogliamo arrivare? Allo Schalke? No. Aspetta, allora, un momento, 15 giorni dopo la stessa cosa accade a Bergamo col Milan, e al Milan è stata data la vittoria 2-0. Ecco, io, questa è la Juventus. Questa onestamente del Milan 15 giorni dopo non la ricordo. Quello che trovo incredibile è che con tutte le grane che già abbiamo oggi abbiamo bisogno di alimentarci andando a cercarne altre vecchie addirittura di mezzo secolo. Per carità, il suo ricordo è ineccepibile, è fino a Bergamo, quello non sono documentato. Il suo ricordo su quello che ha raccontato a Torino è perfetto, andò esattamente così. Detto questo, mi pare che ne abbiamo già abbastanza di attuali. Sergio ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, salve Garanzini. Senta, vorrei fare così una precisazione su Leonardo, se si può chiamare allenatore, perché è vero che Maicon non corre più, che gli altri hanno le loro, voglio dire, i loro problemi, ma l'allenatore è lui, chi li mette in campo è lui, come primo atto. Secondo, un allenatore che si permette due volte con il difensore centrale ammonito nel primo tempo di rifarlo presentare nel secondo tempo, sapendo che se persino all'oratorio ti dicono ci hai ammonito quell'uomo lì, bene, per i prossimi 20 minuti finché non lo buttano fuori giocate su quell'uomo lì. Questo lo decide l'allenatore, e questi anche gli allenatori dei campetti di provincia. Lui a me sembra onestamente non essere un uomo di provincia, eppure l'ha fatto. Anche di questa nefandezza si è macchiato Leonardo. No, ma Leonardo non è che non abbia commesso degli errori, ma è che, come una volta si diceva, est modus in rebus, cioè non è un fenomeno questo allenatore, però non è nemmeno quello. Oggi invece o è un l'allenatore in genere, non parlo di Leonardo in questo caso, o è un fenomeno o è un imbecille. Oggi la via di mezzo non esiste più. Facciamo in tempo, chiedo a sentire la rubrica Nicola Filippone, forse sì, sembra ieri. Sembra ieri. 7 aprile 1929. Netta sconfitta per la nazionale italiana guidata dal futuro tecnico juventino Carlo Carcano in una sfida valida per la Coppa Internazionale. Gli azzurri capitolano per 3-0 a Vienna contro l'Austria del mitico Hugo Meisl, quella che di lì a pochi anni sarebbe diventato il Wunder Team. Le squadre interpretano la gara con grande agonismo e a farne le spese è il centromediano torinista Antonio Ianni, che a metà primo tempo si rompe una gamba, lasciando l'Italia in 10. L'infortunio di Vienna sarà un duro colpo per Ianni, il cui prosieguo di carriera sarà seriamente limitato. Grazie a Nicola Filippone, grazie a tutti voi che ci avete seguito dal Vinitaly, da questo stand del Trentino, per la 45esima edizione di Vinitaly a Verona. Grazie a Filippo Aurelio in regia, a Davide Ciocia, a Elena Ligios che ha curato la regia di questo allestimento. Grazie a tutti, buon pomeriggio.